Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio e benvenuti da Luca Tremolada. Abbiamo sentito la situazione drammatica nel messinese e noi abbiamo provato a seguirla anche su Twitter, sui social network, su internet. Vero Luca Dello Jacopo? Sì, e su Twitter le persone stanno partecipando al dramma avvenuto in Sicilia. Dice un utente: abbiamo appena avuto la nostra apocalisse, pioggia su Messina e morti. Un altro utente dice: ho appena letto le notizie, sono cresciuto a Messina, è terribile. Ecco, due spiegazioni. Twitter, che cosa succede? Sono degli utenti che si connettono a internet e pubblicano le foto, pubblicano quello che vedono, raccontano quello che vedono. In un certo senso sono dei testimoni di eventi. Sono testimoni di eventi e raccontano appunto in diretta quello che sta succedendo con i loro occhi e da punti di vista differenti. Su un altro social network che si chiama FriendFeed le notizie di Messina sono scritte anche in russo. Tra l'altro, tutte queste informazioni voi le trovate su Novalab, cioè quindi twitter.com/Novalab. E restiamo sul tema delle persone che testimoniano, di tecnologie che testimoniano, per introdurre il primo ospite che abbiamo oggi, che in un certo senso si occupa di raccontare l'ambiente. Abbiamo con noi Leandro Agro, fondatore di Wide Tag. Buongiorno. Bentrovati a te Luca e agli ascoltatori. Ecco, sentiamo chi sei nella scheda di Luca Dello Jacopo. A 14 anni Leandro Agro deve scegliere tra il motorino e il computer, ma non ha dubbi, afferra il mouse. Una decisione di cui non si pentirà, vivendo in prima linea la diffusione capillare del web. Durante gli studi universitari in Sicilia fonda con un amico Alto Profilo, una società per fornire servizi alle imprese che si affacciano su internet. È un'idea che vince un concorso e viene finanziata da Pirelli. In poco tempo Alto Profilo apre una sede a Milano e un'altra a Boston. Agro si definisce ibrido. È orgoglioso di iAble, un software che aiuta i malati di sclerosi laterale amiotrofica a comunicare con i movimenti degli occhi senza tastiera. Dopo la rivoluzione globale di Google e Facebook, l'ultima scommessa di Agro è la startup Wide Tag. Salverà il mondo soffocato dall'anidride carbonica? Ecco, in attesa di capire se salverà il mondo, io ieri la spiavo Agro, ho letto i suoi Twitter su Anno Zero, in cui ti domandavi se Twitter oggi può essere una TV di nuova generazione. Oggi, a maggior ragione, vedendo anche tutto quello che viene pubblicato sul dramma che stanno vivendo a Messina, siamo in presenza di un nuovo media. Ma allora, Twitter ha dimostrato con la sua presenza sulle situazioni di guerra in Medio Oriente, piuttosto che in altre situazioni di disastro, di allarme, quanto il microblogging può essere efficace, proprio perché è difficile da filtrare, bloccare, da controllare, perché non c'è un centro, non c'è un'antenna da abbattere, quindi quanto importante sia Twitter per la libertà. L'accezione in cui lo vedevo ieri sera era questa contemporaneità con cui diciamo così, le persone che stavano dentro la televisione riuscivano ad aumentarla, riuscivano ad arricchirla, e così una televisione broadcast che parere personale a me non ha più nulla da dire, diveniva di nuovo interessante, perché non era tutto il contenuto, ma era un pezzo del contenuto, e in quel senso era nuovamente ricca. Sì, tra l'altro l'idea è proprio quella di stare seduti davanti al divano con una tastiera in mano o con un telefonino in mano, dove si commenta in tempo reale quello che si vede. Anch'io ho seguito un po' la cronaca ieri su Anno Zero e stiamo seguendo adesso la cronaca sul dramma. Sono due temi completamente diversi, ma la modalità di intervento, di partecipazione, di richieste di aiuto sono particolarmente simili, volendo. Sì, ma è fondamentale proprio la citazione dell'input device, cioè tastiera piuttosto che telefonino. Quello che ha cambiato radicalmente i comportamenti e che ha molto a che fare anche con la mia startup White Tag è il fatto che stiamo utilizzando i telefoni, che non sono più telefoni, sono dei computer veramente in dimensioni ridotte e portatili, li stiamo utilizzando come dei portatori sani di sensori, come dei portatori sani di comunicazione, di opportunità di allargare anche quegli altri media che sfortunatamente sono blindati sulla carta e una volta stampati non sono rieditabili o sono all'interno di un contenitore televisore che può essere fruito solo in certe condizioni. Ecco, parlaci di white noise, cioè tu hai trasformato o vuoi trasformare i telefonini in dei rilevatori di rumori per le città sostanzialmente. Direi che è qualcosa di già fatto, però farei un passo indietro. L'idea è che quando gli oggetti comunicano su internet con la stessa facilità che abbiamo noi oggi su Facebook e su Twitter, cioè le cose di cui abbiamo appena parlato, lo fanno in modalità, diciamo così, diversa, nel senso che mentre noi possiamo mandare un numero limitato di messaggi su Twitter prima di impazzire, le macchine, sensori, rilevatori di vario genere possono veramente fare una cronaca istante per istante di quello che hanno di fronte come situazione da monitorare, appunto. Allora l'idea che la gestione del patrimonio pianeta Terra sia gestita anche attraverso una rete di sensori, che non è una rete che mette la NASA o il governo tra i dettagli, ma che è una rete di cui noi tutti siamo portatori, una rete che vive nei nostri telefoni, nei nostri computer, beh, quella è un'idea sociale molto ispirata ai social network, cioè questo modo nuovo di pensare che può trovare attuazione. Ecco, Agro, c'è Luca Dello Jacopo che ti vuole fare una domanda. E come può cambiare tutto questo la nostra vita quotidiana nel momento in cui anche noi partecipiamo a una rete collettiva di sensori per internet? Beh, ci sono un paio di valutazioni da fare. Innanzitutto noi abbiamo vissuto proprio in tempi recenti, tutto sommato, un'era industriale dove il modello concettuale era la catena di montaggio, un'era dell'informazione dove tutto era broadcast, compreso l'energia che viene prodotta in una centrale e poi sperperata lungo i cavi fino a quando una parte arriva nelle nostre case, insomma, no? Bene, ora i social network internet ci stanno insegnando che c'è un modo nuovo e diverso di fare le cose. Nell'energia, per esempio, si parla di smart grid, e quando io sono al lavoro la mia casa produce energia perché c'è un pannellino solare. Ecco, ricordiamo però a Gro che stiamo lo smart grid, che è sicuramente una frontiera super interessante, è un po' d'avvenire, nel senso che non abbiamo moltissimi esempi in Italia, non credo che ci siano esempi di questo tipo, sbaglio? Ma allora, in realtà molti dei futuri che dobbiamo costruire sono legati a delle infrastrutture che, come dire, non ci sono ancora, e si può pensare che siano molto distanti da noi perché noi siamo abituati a pensare che le infrastrutture debba farle qualcun altro. Per fare le autostrade ci vogliono gli stati, per fare gli impianti di telefonia cellulare ci vogliono le società telecom e così via. In realtà noi stiamo notando che alcune infrastrutture emergono... Ce ne facciamo da noi sostanzialmente. Ce ne facciamo da noi. Il peer-to-peer, Skype su internet è un esempio, ecco, di questo. Non parliamo difficilissimo. Tra l'altro, se stiamo parlando troppo difficile, 824-0024, insultateci, ditecelo. E se volete scriverci qualche cosa di brutto, 349-238-6666, che noi non ce ne accorgiamo perché siamo con la testa dentro a queste reti. Dimmi, Luca. Anzi, partendo proprio da cose più concrete, magari Agro ci può fare l'esempio di una barca su cui hanno montato dei sensori che cambiano radicalmente il modo in cui funziona poi la barca a vela. Questa è proprio una sfida importante internazionale, parliamo di Green Cone Challenge, della possibilità di avere una barca italiana in Coppa America, ma non una barca che sia lì soltanto per vincere la regata, e quella è l'ambizione, ma sia anche un manifesto e un veicolo di una serie di tecnologie e di innovazioni che in qualche modo comprendono l'Italia, comprenderanno le reti di sensori ovviamente, ma comprenderanno anche un approccio nuovo. Ma alla cos'è, quindi è la barca senza il prodiere sostanzialmente? No. L'equipaggio ci sarà, e come, sono loro che devono fare le gare. Tutta la parte di sensoristica sarà estremamente utile, soprattutto in fase di progettazione, che è una progettazione che non è limitata alla costruzione del singolo scafo, della singola unità che poi va in gara, ma una progettazione che vuole veramente ridisegnare il modo in cui... Che volevo farmi subito nemici i velisti in ascolto, perché chiaramente poi il dramma delle tecnologie, che pensano sempre che possano fare a meno di noi, e magari succederà anche così. Tra l'altro, tu la settimana scorsa era ad Amsterdam a picnic, no? Sì. Ecco, cos'è picnic, Luca Dello Jacopo? È la Woodstock degli ambientalisti e appassionati di tecnologia, è il posto dove si ritrovano ogni anno per capire quali sono le frontiere e Agro appunto li ha conosciuti e può dirci qualcosa. Cos'hai visto di interessante? Che cos'è che c'era di strano che dobbiamo sapere? Ma allora, di speech interessanti ce ne sono stati molti e questo succede spesso nelle conferenze, ma secondo me una delle cose che in Italia dovremmo spesso importare è il clima con cui avvengono certi eventi, e non parlo certo del clima meteorologico di Amsterdam, che insomma non è favoloso visto dall'Italia, ma parlo della necessità e della volontà di riuscire ad essere rilassati facendo delle cose di alto profilo e contemporaneamente con quella voglia di divertirsi e di sperimentare che io rarissimamente vedo nel nostro paese. Io ho visto Visto qualche cosa di qualche cosa che ti ha colpito, qualche cosa di strano, qualche cosa che non c'è ancora in Italia, oltre allo spirito, che ci rendiamo conto insomma nelle terre del nord sono, non dico più svegli perché non credo che siano più svegli, però insomma si danno più da fare sul fronte tecnologico. Ma a me piace molto come a Picnic sono riusciti a convivere delle cose molto diverse tra loro, come che so, Nicolas Negroponte, che parla del progetto One Laptop for Child e dice che il futuro del cambiamento alla fine è nelle mani delle generazioni che devono in qualche modo avere l'opportunità di avere la scuola in una scatola proprio e la scatola del computer, e attraverso loro che cambieremo il mondo in direzione dell'ecologia, ma in direzione Speriamo. Di tutto ciò che è possibile. E poi accanto vedere un venditore di terrazzi in erba, di tetti in erba, quindi che proprio ti mette le zolle sul tetto e fa in modo che tu non abbia infiltrazioni, e attraverso questo tipo di copertura riesce a farti avere una serie di benefici in termini di risparmio energetico piuttosto che di altro in casa. E poi magari accanto, ti racconto questa che è veramente gradevole, una sfida tra geek, quindi tra appassionati di informatica, diciamo appassionati subito. Appassionati di informatica, quindi due elevatori, due sorti di ascensori monoposto che in base al tuo nome e cognome ti portano tanto più in alto quanto il tuo nome è ricorrente su Google. Quindi quindi più amici ho, più insomma sono popolare su Google e più salgo. Però è una cosa... Esatto, sì. Nel caso di Google, più che di amici come di social network, si può parlare di articoli e pagine che in qualche modo linkano. Un ascoltatore mi chiede qualche delucidazione in merito alla barca a vela, cioè come funziona. In pochissime parole, bello ficcante. In pochissime parole, l'American's Cup è ovviamente, come dire, la Formula 1 della vela. Quello che stiamo tentando di fare insieme all'Università di California, il Politecnico di Torino e delle altre diciamo contribuzioni di talento e di innovazione è quello di costruire un metodo di progettazione degli scafi che oggi possa essere utile a rendere più performante la Greencom Challenge che parteciperà all'American's Cup, e da questa esperienza vogliamo anche trarre appunto dei benefici per la progettazione futura che ha una vision anche molto alta, ma poi pragmaticamente appunto serve a fare le prossime barche vincenti che non costino quanto una Formula 1. Chiarissimo, sì, chiarissimo. Adesso poi vediamo se ci riscrive ancora l'ascoltatore, ce la rispieghi da capo. Noi restiamo sul tema delle reti, dei sensori, però cerchiamo di capire come queste reti possono anche cambiare i rifiuti in risorse con Luigi Bistagnino, docente del Politecnico di Milano, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno, sono del Politecnico di Torino, però. Di Torino, lo so, ho sbagliato città. Allora, sentiamo rapidamente nella scheda chi è lei. Il rifiuto non è uno scarto, ma una risorsa. È la convinzione di Luigi Bistagnino, docente di disegno industriale al Politecnico di Torino. Vincitore del premio italiano più ambito per i designer, il Compasso d'Oro, Bistagnino è un sostenitore del design ambientale. L'idea è di collegare persone, aziende e luoghi per costruire un ecosistema dove i rifiuti di alcuni diventano risorse per altri. Di cosa parliamo? Pensate che in Italia ogni anno restano inutilizzate 12 milioni di tonnellate di rifiuti agricoli e alimentari, 430.000 tonnellate di pneumatici, 3 milioni di tonnellate di fanghi da depurazione e 500.000 tonnellate di car fluff, il residuo non metallico della demolizione di una vettura. Allora, prima di approfondire con Bistagnino, tra l'altro mi hanno detto che avete un progetto per riutilizzare i materiali di scarto nella Val di Susa per concimare le risaie. Prima di capire questo progetto, c'è un SMS di Fabio da Sassari che dice: come si fa a reperire informazioni su queste reti e partecipare anche attivamente a questi progetti? Luca, diamo due indirizzi al volo. Assolutamente, c'è la Green Map, basta trovarla su Google, dove si può partecipare alle community ambientaliste, oppure esistono i siti più tradizionali come il WWF, che permette anche di partecipare a social network. Allora, noi diamo la linea alla borsa in diretta, ma prima vi preannunciamo che dopo aver approfondito con il professore del Politecnico di Torino, adesso non ho sbagliato, come i rifiuti possono diventare una risorsa, vi racconteremo di un personaggio straordinario, una sorta di MacGyver dell'emergenza, una persona che riesce a dare una seconda vita ai computer. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono e Luca Dello Iacovo davanti a me che si dondola sulla sedia. C'è un SMS che mi rende particolarmente gioioso. Il concetto, scrive un ascoltatore, è: noi facciamo, non aspettiamo che altri facciano qualche cosa. Per cui, insomma, il messaggio è chiaro: agitarsi, connettersi, i link, mettersi in rete per provare a portare avanti delle imprese, no? Soprattutto riuscire poi a cambiare una mentalità, come fa per esempio chi trasforma i rifiuti in risorse. Per esempio, se pensate alle tonnellate di rifiuti agricoli e alimentari che possono dar vita ad altri usi, come per esempio il biogas. Nel caso di Luigi Bistagnino ha avuto un'idea. L'idea è quella di utilizzare i detriti degli scavi per il traforo della Val di Susa per un altro scopo. È un'idea concimare le risaie, insomma, sostanzialmente. Bistagnino, sì, buonasera. Com'è che funziona? Com'è che funziona? Non so, forse tutti quanti ricordate che ci sono i giardini rocciosi, no? Certo. Il giardino roccioso non è soltanto una pietraia, ma sono dei giardini con dei fiori, il che vuol dire che ci sono certi fiori che vengono vicino a delle rocce che non sono altro che dei minerali, e quindi sciogliendosi da queste rocce traggono nutrimento. Il problema è che abbiamo affrontato un rifiuto che è quello che generalmente la nostra società non fa. Siamo troppo impegnati a guardare il prodotto e non le cose che generiamo. Cioè, questa linearità è quella che ci ammazza. E invece, se fare una galleria di sicurezza, come in questo caso, è necessario per la sicurezza, per il trasporto, per tutto quello che volete, ma perché io devo andare a fare delle montagne al di fuori? Ma qui, ecco, due cose. Uno, chi fa cosa, nel senso, cioè su un progetto come quello di concimare le risaie con i detriti, che sulla carta è splendido, però bisogna anche capire, insomma, chi prende questi detriti e li sposta. Noi abbiamo visto che, per esempio, sotto queste montagne sono ricche di calcescisti. Calcescisti vuol dire che c'è tanto silicio all'interno. Allora, vedendo chi poteva nell'intorno, quindi al rifiuto di uno, questo ha bisogno di fare un buco, quindi togliere del materiale. Chi c'è che è interessato a usare questo scarto? Abbiamo visto che le risaie, che sono vicine qui in Piemonte, si parlava di un traforo di sicurezza per la Galleria del Frejus, le risaie che sono a Novara e Vercelli hanno necessità, invece di mettere degli additivi chimici, di poter utilizzare questa polvere, questa sabbietta, per poter far sì che si possano fertilizzare le risaie e non si continui questa questo inizio di desertificazione che abbiamo anche in Valpadana. Ecco, certo che lei non è proprio ben visto dalle aziende, nel senso che le aziende che producono prodotti o quantomeno quella logica per cui insomma noi siamo consumatori di oggetti, sostanzialmente tutto quello che poi buttiamo, chi se ne importa appunto, di questo? Ma in natura non esiste quello. Noi, il problema è che noi viviamo in un mondo in cui lo scarto diventa di un sistema diventa risorsa per un altro, e tutto funziona in questo modo, e c'è una metabolizzazione continua attraverso i cinque regni che sono i batteri, le alghe, i funghi, le piante e gli animali, tra cui siamo noi. Quindi Bissannino, dobbiamo imparare dalla natura per riuscire certo, è una sofisticata fucina di idee, di situazioni che noi invece non guardiamo. Noi siamo interessati al prodotto solo, e non ci interessa quello che scartiamo o il materiale che stiamo usando. Noi dobbiamo usare o sempre il materiale vergine e cerchiamo di minimizzare i prodotti, ma prima o poi le discariche cominciano ad aggredirci, ma non sono loro che ci aggrediscono, siamo noi che le facciamo. Un ascoltatore si domanda, scusate, ma la normativa sui rifiuti la evitate? Certo, bisogna rispondere alle normative, bisogna tenere presente che le normative si sono evolute nel tempo, qui non stiamo parlando di rifiuti tossici, stiamo parlando soltanto di materiali che vengono tolti da una parte e che possono essere utili per un'altra. Non so se piacciono i ravioli a tutti quanti? Penso di sì, però i ravioli sono il mix creativo di avanzi di un pasto di una settimana di una famiglia che opportunamente messe insieme hanno generato i ravioli. Sì, non sta a me a dirlo, però quando cambiano le società e poi le tecnologie sono degli strumenti di cambiamento eccezionale, forse le leggi si devono anche essere riviste anche in base a quello che sta succedendo. No, ma è chiaro, però abbiamo troppo la visione che noi siamo capaci a gestire delle cose, siamo noi che produciamo, e non ci rendiamo conto che in 200 anni siamo arrivati a questa situazione di grande produzione, cioè bisogna essere in relazione con l'ambiente in cui si è. Ecco, noi siamo in collegamento anche con Stefano Sala, che è presidente di Banco Informatico e credo che sia completamente d'accordo con le sue idee. Buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato e buongiorno anche ai suoi ascoltatori. Ecco, sentiamo chi è Stefano Sala nella scheda di Luca Dello Jacopo. Stefano Sala è un imprenditore che interviene per risolvere emergenze dopo incendi o calamità naturali. Un'esperienza professionale che gli ha insegnato come valorizzare i rifiuti e gli scarti. La svolta arriva 5 anni fa. Dopo un grave incidente nell'edificio della Regione Lombardia, ottiene alcuni computer inutilizzati che invia in Perù presso un'università. Poi, con alcuni amici, fonda la Onnus Banco Informatico. Raccoglie computer e macchinari biomedici usati per inviarli alle associazioni non profit e nei paesi in via di sviluppo. In questo modo, i dispositivi elettronici non sono più un costo per lo smaltimento, ma arrivano a chi ne ha bisogno. Finora, Banco Informatico ha raccolto e distribuito 5.000 computer e aiutato 800 Onlus. Allora, prima un messaggio diretto a Filippo da Milano che ci parla di Nature Mille. Allora, noi stiamo raccogliendo tutti i progetti, idee, soluzioni, cose che ci vengono nella testa, che dovrebbero essere innovative o che vogliono essere innovative e che in ogni caso vogliono cambiare un po' il mondo. Scriveteci a novalab24@radio24.it, che poi le raccogliamo tutte e poi ne parliamo durante la trasmissione. Ma torniamo a Sala, ma mi racconti bene com'è andato con l'aereo nella regione Lombardia? Ma dunque, è andata in questo modo: siamo, come molti di voi ricorderanno, poco dopo l'11 settembre un piccolo aereo da turismo entra nel grattacielo Pirelli, e quello che accade è molto semplice: un aereo che entra in un grattacielo di fatto è come un grosso incendio, una grossa energia meccanica che si sprigiona. A questo punto questo aereo entra negli uffici dove era presente l'avvocatura della Regione Lombardia, quindi tutti gli avvocati che avevano tutte le loro pratiche lì Allora la mia azienda fu incaricata a quel tempo di salvare i dati dai computer attraverso dei processi in camera bianca molto complessi, eccetera. Riusciamo a salvare i dati, circa il 70-80% dei dati, dopodiché la regione ci dice: ma se volete i computer che sono ancora buoni potete tenerli, perché io non so, noi non sappiamo cosa fare, l'assicurazione ce li compra nuovi. E allora a quell'epoca misi nel mio capannone questi 150 computer lì, senza sapere bene cosa potevano servire. Poco tempo dopo, e la vita è sempre fatta di incontri, di avvenimenti, incontro un sacerdote genovese che è in Italia, che mi dice: sai, io qualche anno fa sono andato in Perù a trovare un amico, insomma lui è un sacerdote, a trovare un altro suo amico sacerdote, e mentre era lì quel suo amico sacerdote purtroppo ebbe un incidente e morì. Allora il vescovo di quella città, di Lima, in Perù, gli disse: per favore, puoi stare qui un po' di tempo a darmi una mano con gli uffici, eccetera. Lui rimase lì e si affascinò a quella terra, non andò via più. Sì. Ed ebbe un'idea geniale, disse: ma io devo fare in modo che questa gente sia capace di imparare cosa vuol dire amministrare le cose, eccetera. Allora decise, nella zona più povera di Lima, di fare un'università di economia e commercio. Avendo io fatto la Bocconi, abbiamo subito avuto una certa unità di intenti. Vi siete trovati subito. Esatto. E lui mi dice: senti, però io ho un problema, perché qui abbiamo in 3 anni già 2500 studenti e non ho neanche un computer. Ecco che mi parte la lampadina: ma io ti posso dare i computer che mi ha regalato la Regione Lombardia. A quel punto, una sera, a cena fra amici, ci siamo detti: ma perché non troviamo il modo sistematico di raccogliere dalle aziende i computer usati, ma che funzionano ancora e che vengono cambiati semplicemente per un miglioramento tecnologico? Li mettiamo a posto tramite un po' di amici volontari e li doniamo a quelle realtà, non solo all'estero così lontano, ma anche qui a Milano, in Italia, a quelle realtà magari no profit che, avendo pochi soldi a disposizione, anziché doverli spendere per comprare attrezzature, è molto meglio che li spendano per il loro scopo sociale e io gli dono le attrezzature che trovo. Così allora, è nato il Banco Informatico. Vogliamo dire una volta per tutti che, insomma, per fare la maggior parte delle cose che facciamo con i PC, con i personal computer, non abbiamo bisogno di tutta la potenza di calcolo che ci viene offerta nei negozi? Lo possiamo dire un pochino sottovoce? Senza no, farci... perché non diciamolo sottovoce, diciamolo pure ad alta voce. Uno studio recente indipendente ha fatto notare che i computer, soprattutto i programmi, vengono usati circa al 20% delle proprie capacità. Il che significa che le persone normali, soprattutto quando uno ha bisogno di informatica di base, non ha bisogno dei Pentium super lusso per risolvere i computer, bastano i computer tradizionali. E vi assicuro che oggi noi già riceviamo in dono dalle banche, dalle assicurazioni, non solo i PC di 3 anni prima, che quindi funzionano benissimo, ma già gli schermi piatti di prima generazione, perché ormai ci sono già gli schermi piatti di seconda generazione, quindi questi vengono buttati via. Pensate che spreco buttare via, spendendo soldi, perché oggi in Italia dal 1 gennaio di quest'anno tutte le aziende che devono smaltire degli oggetti, benché funzionanti, pagano per smaltire. Allora la provocazione del Banco Informatico è: cara azienda, perché devi andare a spendere dei soldi quando potresti non spendere nulla, donare i PC al Banco Informatico, che fai bene due volte, bene a te dal punto di vista economico e bene a qualcun altro che li riceve senza poterli comprare. Quindi è un costo che si trasforma in una ricchezza. Assolutamente, assolutamente sì. Il problema è che molto spesso queste cose non si conoscono e quindi e si invece perdono noi le facciamo conoscere. Esatto. Anche se il primo problema è che il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io ringrazio Leandro Agrò, Luigi Bistagnino, Stefano Sala per essere intervenuti. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Un avviso giudiziario cinguettato. A Londra un tribunale ha per la prima volta utilizzato Twitter per recapitare un'ingiunzione a un utente, accusato di aver assunto illegalmente l'identità di un blogger conservatore del Kent, Donald Blaney. Il giudice ha dichiarato che Twitter era il mezzo più veloce per contattare il falso microblogger. Per gli amanti del calcio giocato digitale arriva FIFA 10. Esce oggi l'ultima versione del videogame Electronic Arts, rinnovato nella grafica e nel gameplay. Il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation, Xbox, Nintendo e anche in una versione scaricabile per iPhone. Riuscirà a battere lo storico avversario Pro Evolution Soccer? Una sorpresa per i fan della trilogia di romanzi Millennium, scritta dallo svedese Stieg Larsson. Nella pagina Facebook di Nova Lab 24 potrete vedere alcune fotografie scattate a Stoccolma sui luoghi dei film Uomini che odiano le donne e La ragazza che giocava con il fuoco. Bentornati Luca Tremolada, Luca dello Iacovo e soprattutto Enrico Pagliarini, che festeggia con noi, festeggiamo la 10 anni di Radio 24. Evviva! 10 anni anche di 2024. Pazzesco, hai visto? Sì, perché se tu vai a vedere nel palinsesto della radio, alcuni programmi sono sopravvissuti, non tutti, alcuni nuovi come Nova Lab. E quando, quindi nel 2024, quindi quanti anni saranno? Dal 2024 4, quindi 15, 9, 25 sì. anni. Ammazza. 25 anni. Chissà se ci arriveremo generale al 2024. E tu sei il grandissimo esperto di radio. E ci parlerai di radio domani a 2024. Sì, parliamo un po' di radio, cercando un po' di fare il punto della situazione sull'oggi, sul domani prossimo, quest'altro anno, anche sul futuro invece di qualche anno, perché diciamo la verità, l'FM, lunga vita all'FM, l'FM continuerà ad esistere per ancora molto tempo. Però qualche cosa sta succedendo. Devo dire che forse per la radio le cose stanno succedendo un po' più lentamente rispetto a tutto il resto che sta capitando su internet. Però c'è qualche cosa. Adesso, se ci fanno sentire l'audio che abbiamo preparato, su internet, dicevo, nascono sempre cose nuove. Recentemente, un paio di mesi fa, è stato presentato questo nuovo sito internet che si chiama... Sentiamolo un po'. No, sta arrivando. Hi, welcome to Mixcloud. Allora, mi è piaciuto soprattutto il nome, Mixcloud. Ma poi come l'ha detto? Esatto. Diciamo che questo cloud dà un po' l'idea di che cosa sta succedendo oggi. Il concetto è molto semplice. Si tratta di un sistema per pubblicare contenuti audio, un po' come per YouTube. Certo. Questi ragazzi, devo dire che ci sono altri che stanno provando a fare questa cosa, però mi sembra che Mixcloud dia bene l'idea del remix che sta un po' prendendo. Ma a te convincono queste cose? Sicuramente non c'è dubbio che ci sarà una frammentazione di contenuti sulla rete, quindi la concorrenza della rete in generale sarà molto forte per le radio tradizionali, quindi chissà, magari fra qualche anno anche noi saremo... Ma certo. Sul web a fare una web radio oppure saremo disponibili in podcast e sarà quello lo siamo già oggi, però potremmo tentare di pubblicare qualcosa su Mixcloud. Ma infatti la cosa bella della radio è che c'è ancora un sacco di cose da inventare, secondo me. Sì, devo anche dire che il vero vantaggio e la cosa bella della radio è che ancora oggi, con un'attrezzatura molto economica, si può fare un bello spettacolo, come un bello negli show. Anni 70, lo diciamo? Sì, come negli anni 70. Sì, sì, sì, sì. Domani 2024 si approfondirà l'argomento, noi invece ci sentiamo lunedì alle 4. Arrivederci. Ciao. Ciao. Hi. Welcome to Mixcloud. Nova Lab 24.